parto, prendo il mio trenino e scappo. Sono ormai ridotta all'osso per un sentiero di mare. Nuda sotto quell'accappatoio, con le mani sempre addosso. Certo non era un grande amore. Tu che all'inizio mi parlavi di poesie, di storie buone, e mi si scioglieva il cuore. Giorno dopo eri diverso, eri strano e un po' molesto, ed io non capivo come mai. Penso quanti viaggi fatti in treno per vederti un solo giorno, io a Legnano e tu a Spotorno. Sempre mi toccavi alla stazione, lo ricordo, l'occhio tondo, senza neanche un ciao. Come stai? Io che cercavo inutilmente di bloccare le tue mani, ma non vedi che c'è gente. Ah, sì, non è certo il vero amore, tutta tenerezza in fiore, e se vuoi quel certo non so che. Coi vestiti